io c'eri, tu c'eri, voodoo. Ho sul déjà vu, ricorda insieme a me da lassù. Cola come c'era, quel che c'era non c'è più. Ero io, eri tu, era il voodoo. C'ero io, c'eri tu, c'era il voodoo. Ho sul déjà vu, ricorda insieme a me da lassù. Cola come c'era, quel che c'era non c'è più. Ero io, eri tu, era il voodoo. Sono passati quasi 10 anni, ancora mi ricordo come fosse ieri. Non si può dimenticarti, cosa credi? Che soltanto perché adesso non cammini tra noi, qui non ci siano i tuoi pensieri. I voodoo belli come quelli che facevi nei tuoi pezzi, ora sono espressi nei miei testi, resteranno impressi in 4/4. Così continuo a farti cantare insieme a me, nel suono voodoo ancora parli. Qui con me rimani, non pensare che col tempo mi allontani. Vivi dentro me, Marco, e sono giorni strani. Non so se sai tutto quello che è successo in questo scorcio di vita che è andato perso, un altro squarcio. Tanto per me è lo stesso, uno più uno meno, certo. Questo è bello serio, da 4 anni sono padre, da 5 sono stato innamorato e non sapevo di dover pagare. Ogni attimo di gioia passata adesso fa male. Il nodo non si manda giù, sputo invece di ingoiare, perché per loro due ho vissuto e non ho smesso di lottare. Neanche adesso che non sono a casa e che vorrei tornare. Vedi amico mio, certe volte come va, quando eri ancora qua non l'avremmo immaginato affatto, che d'un tratto il presente è disfatto e sfugge dalle mani. E resto sotto un cielo scuro, nero, opaco, maledetto pure il giorno che sono nato. Ma poi penso che una figlia e sono un uomo fortunato rispetto a molti. Ho già avuto un déjà vu, c'ero io, c'eri tu, c'era il voodoo, tempo che fugge non ritorna. C'era la nostra luce nel buio e tutto il resto in ombra. Non c'era la tua tomba ancora, io non ci vado mai a visitarla. Non parlo ad una pietra, ma la mia voce suona fusa con la tua ora. Ero io, eri tu, era il voodoo allora, per sempre fisso nella mia memoria. C'ero io, c'eri tu, c'era il voodoo. Ho sul déjà vu, ricorda insieme a me da lassù. Cola come c'era, quel che c'era non c'è più. Ero io, eri tu, era il voodoo. C'ero io, c'eri tu, c'era il voodoo. Sul déjà vu, ricorda insieme a me da lassù. Cola come c'era, quel che c'era non c'è più. Ero io, eri tu, era il voodoo. Ti scrivo ora ma non so io dove sia tu. Di sicuro vivi in me e nella mia crew. Sei tu la persona che più ci è mancata. T'ho cercato nei ricordi qua giù. Crash tu, dai tu, ancora la tua forza al voodoo. Cola c'era ma la luce non si smorza mai più. Hai tu segnato la tua eternità. La tua voce qua, la tua musica e l'identità che dà. Senza questo mondo inverso coppa, ogni mio verso è dedicato a Penelope e lo style. Già lo sai, questo mai si dimentica. I viaggi a Londra e a Rimini è la nostra storia autentica. Senti Marco, io non lo so se sei aggiornato, perciò scrivo questa lettera per dirti ciò che ho fatto nel passato di tempo. E quando passa lui non replica. Sono ripartito in Spagna ricercando la mia America. Sentieri carichi di conoscenza multifacetica. Trovai il metti in podcast e c'è donne d'Africa. Una di esse adesso già da un po' mi accompagna qua in questa vita. Pesa un filo insieme all'aldilà. Da lì a là, senza né Dio né Allah. Mi son mosso dalla Spagna alla Francia cercando le verità. Severità del mondo che mi ha colpito in faccia. Le grandi città in fondo son solo una minaccia. Per me, per sé, forse per tutti in generale. Persi l'integrità, senza radici stavo male. Dove la gente vive solo per lavorare. Noi gente del sud lavoriamo solo per mangiare. E a quanto pare non son fatto per sgobbare e per ingoiare merda. Ho preferito ritornare. Stare in Sardegna insegna che la nostra terra è degna. E chi si impegna e chi si ingegna, la sua rota segna, regna. La tua tega Sassari per sempre rispettata. Pelo BSC e GVC in ogni strada. C'ero io, c'eri tu, c'era il voodoo. Ho sul déjà vu, ricorda insieme a me da lassù. Cola come c'era, quel che c'era non c'è più. Ero io, eri tu, era il voodoo. C'ero io, c'eri tu, c'era il voodoo. Ho giù un déjà vu, ricorda insieme a me da lassù. Cola come c'era, quel che c'era non c'è più. Ero io, eri tu, era il voodoo. We'll be right back. sei nell'oscurità. Un mondo oscuro, eterno e infinito. Parecchi chilometri sotto la superficie. Passo falso può spedirti in un baratro profondo centinaia di metri. E se ti fai male laggiù, se ti rompi un braccio o una gamba, non ci sono ambulanze nei paraggi, non ci sono ospedali. Ed è possibile che tu ne esca vivo. L'esperienza millenaria del fare e rifare. L'esperienza millenaria del fare e rifare. Dovreste vedere, qualsiasi ragazzo di strada sembra più sano di voi. E voi riuscite ad esserne contenti? In che cosa vi hanno trasformato queste maledette droghe? Forse i ragazzi avranno alzato un po' troppo il volume della musica.